Io ho fatto una canzone qualche anno fa, si chiama L'Osteria del Tempo Verso. Dice un asino che vola, guardo ma non c'è. Poi ti guarda in faccia, ride e fa blam blam blam. E gli amici intorno che mi fan blam blam blam. Dice un asino che vola, guardo ma non c'è. Dice il tempo passa e vola, guardo ma non c'è. Poi mi guarda in faccia e ride e fa blam blam blam. E gli amici intorno che mi fan blam blam blam. Dice il tempo passa e vola, guardo ma non c'è. L'osteria del tempo perso non c'è più, non c'è. Ha cambiato nome adesso, posto più non c'è. E gli amici intorno che non fan più blam blam. L'osteria del tempo perso non c'è più, non c'è. Dice è tempo di cambiare, dai che tocca a te. E son tanto serie adesso, non fan più blam blam. Chi va a destra e chi a sinistra e c'è chi resta là. È passata chi l'ha vista, la felicità. Grazie.